porta. Io sono Fabio Benincasa, un docente, un curatore, mi occupo spesso di... Forse l'intelligenza artificiale è la cosa che mi interessa di più, sono i suoi aspetti politici, anche se anche come educatore ovviamente diciamo, mi ritrovo con una larghissima produzione di testi, per esempio degli studenti, tutti di natura dell'intelligenza artificiale, tutti prodotti dall'intelligenza artificiale, però mi interessa anche per esempio la produzione di immagini, le questioni legate al copyright, eccetera, quindi... Diciamo, da questo punto di vista un certo interesse. Non credo di avere una competenza, perché è una tecnologia così nuova che ancora credo che penso che le persone siano ancora perplesse su che cosa ci si può fare. Sì, io sono Elio Castellana, un artista visivo, e mi interesso di filosofia, oserei dire, e di religione, nel senso, quindi penso che posso dire qualcosa, diciamo, rispetto all'intelligenza artificiale da questo punto, diciamo, da un punto di vista più legato alla storia dell'umanità, diciamo, e ai desideri, diciamo, sommersi dell'uomo dai tempi biblici a oggi. Allora, mi attacco ai suoi tempi biblici, sono Michela Becchis, sono una storica dell'arte, curatrice, insomma faccio svariate cose. Parto da questa riflessione che poi potrebbe essere forse anche un motivo per ragionare. Avendo insegnato molti anni alla mitica SIS, che era la scuola di specializzazione post laurea per andare a insegnare, partecipando a un convegno in realtà di neurobiologi e neuropsichiatri infantili, scoprì una cosa, e cioè che loro stavano studiando già alcuni anni fa una cosa che non era mai successa da che si sa più o meno dove sta il cervello e da dove, cioè dove è allocato, e che si riesce a studiare, no, adesso sto parlando seriamente, con un minimo di cognizione, e cioè che un'area specifica del cervello si era modificata, cosa mai successa, l'area 13, ed è quella che in realtà definiamo semplicemente multitasking, mentre quella della memoria remota si stava riducendo sensibilmente, cioè una cosa verificata con studi fatti su adolescenti. Da quel momento non la chiamerei intelligenza artificiale, ma mi interessa capire appunto come si sta modificando l'approccio dell'intelligenza, poi capiamo se è artificiale o meno. Allora, buonasera a tutti, io sono Massimo Scognamiglio, sono un artista, un fotografo e un esperto di tecnologia da, diciamo, più o meno da quando penso a proposito di pensiero di intelligenza artificiale. E le cose vanno parallelamente, si incrociano, e le tematiche dell'intelligenza artificiale sono tematiche che ho affrontato in vari momenti, perché poi come tutte le, diciamo, le grandi tecnologie, specialmente l'intelligenza artificiale, ha avuto quelli che si chiamano l'inverno della tecnologia, per cui c'è un... Allora ho spiegato meglio. L'intelligenza artificiale, come tutte le grandi tecnologie, soprattutto le tecnologie estremamente complesse, ci sono stati momenti in cui sembrava che arrivasse e non arrivava mai, e poi crollava come interessi, come investimenti. Questo perché essenzialmente la logica, il pensiero e le tecnologie erano tradizionali, ed erano tradizionali, e quindi non avevano, diciamo, quella capacità di elaborare il linguaggio nelle sue varie forme, dalle immagini alle parole, alla musica che ha adesso. Sono arrivati da diversi anni, adesso ne stiamo cominciando a vedere i frutti, tutte le tecnologie legate al machine learning, al learning, come dire, al deep learning, che poi magari andremo a raccontare meglio, che hanno rivoluzionato completamente quello che si può fare, quello che una macchina può fare, sia in autonomia, sia grazie alla quantità smodata, enorme, immensa di dati a cui può accedere. E questa è una tematica che ha implicazioni non solo tecniche, ma filosofiche, di diritto, etiche, eccetera, eccetera, eccetera, tutti i bias cognitivi che possono nascere dall'accedere oggi a tutti i dati, domani a tutti i dati più tutto quello che andiamo a introdurre, e quando saranno finiti ai dati che si costruisce da solo. Quindi c'è da divertirsi, ma anche da pensare abbastanza, e questo può essere un inizio di conversazione. Allora, mi presento, io sono Salvatore Dina, conosco Alberto, vengo spesso qui come spettatore, ma abbiamo fatto anche degli appuntamenti di carattere scientifico. Io sono qui, per chi è interessato, in doppia veste, perché io fino da studente in ingegneria mi sono interessato all'intelligenza artificiale. C'erano degli argomenti in realtà molto specifici che mi interessavano. Il primo era il test di Turing, che già a quel tempo aveva dei problemi, e mi sono interessato a un ampliamento del test di Turing, e devo dire, poi se capita, verranno fuori delle cose interessanti. La seconda cosa è il famoso scontro, ogni tanto ritorno all'intelligenza artificiale, come detto bene dal mio collega, a volte in chiave, diciamo, di possibilità, a volte in chiave di sconto. Spesso in realtà in un certo periodo era il robot che incarnava questa possibilità di scontro. Ecco, io mi sono interessato di in che cosa consista questo scontro di cui si parla. Ho cercato di togliere un po' la polvere e di vederlo più nitidamente, e con uno strumento, cioè la teoria di Darwin, la selezione naturale. Quindi ho cominciato un po' a vedere in che cosa potrà consistere un futuro scontro probabile, purtroppo, spoilerò, ma lo scontro è molto probabile, poi vi spiego. È chiaro a tutti di che cos'è il test di Turing? Sì, poi si accendo. Ho detto doppia veste. La seconda veste sono il praticone. Io sono l'informatico, sono quello le cose che fa, sono quello che quando due informatici si incontrano smettete di capire perché cominciamo a parlare in maniera astrosa. È parecchi anni che conosco ChatGPT, perché ChatGPT è arrivata la quarta versione e se ne parla. L'ho visto a suo tempo, non mi ha mai interessato troppo, devo dire, però mi sono interessato recentemente perché è uscita la versione, diciamo, per immagini, basata sulla stessa tecnologia, che si chiama DALL-E 2, ed è con quello ho fatto delle cose molto interessanti e lo potrò usare anche per lavoro, già ho trovato il modo di... Quindi potrei dire qualcosa in pratica su questa tecnologia, su come la uso, su come intendo usarla, sulle conseguenze sul mercato del lavoro, perché molta gente finirà sul lastrico, purtroppo. O per fortuna, io già so un paio di categorie per cui butterà malissimo, già li ho inquadrati, fregandomi le mani perché io sono quello che li paga, per cui già vedo come risparmiare, però purtroppo il mercato è quello è, cioè ci sono lupi e pecore. Infine, io purtroppo sono il lupo, perché per il garante della privacy il pastore, io sono il lupo, gli informatici sono i lupi cattivi e le pecore siamo noi a proteggere, siete voi. Passo la mano al collega. Ecco, io a proposito sono la pecora invece, Milano, lavoro nel Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica a Sapienza e mi occupo più che altro dell'aspetto didattico di questo dipartimento, quindi curo effettivamente quello che i futuri ingegneri informatici automatici andranno poi effettivamente a studiare, anche gestionali. Io mi sono avvicinato al mondo, diciamo, dell'intelligenza artificiale da utente, quindi per diletto più che altro, perché interessato, e ne ho riscontrato tantissimi benefici applicativi anche nell'uso quotidiano, e mi ha incuriosito anche il fatto che molte persone utilizzano l'intelligenza artificiale tutti i giorni senza rendersene conto, e di come in un certo senso però venga mistificata dal sentir comune e quasi diventi, come dire, una caccia alle streghe in qualche modo, come se l'intelligenza artificiale fosse il male che ci, appunto, ci metterà tutti sull'astrico e noi finiremo senza lavoro, senza futuro, senza prospettive. Allora, lavorando invece con chi ci lavora sul serio, chi scrive progetti al riguardo, chi sviluppa appunto nuove infrastrutture sia neurali e non in campo applicativo diverso, perché abbiamo progetti diversi in dipartimento con difesa, servizi segreti, ma anche aziende dal punto di vista logistico, inizia a delinearsi un quadro, diciamo, più chiaro e ampio di quelli che possono essere sia, diciamo, i vantaggi che gli svantaggi dello sviluppo dell'IA. E quindi niente, diciamo, vorrei collegarmi, insomma, agli altri per fornirvi una prospettiva su quello che è la mia visione dal punto di vista utente, diciamo, dello sviluppo. Poi ho una formazione prettamente giuridico classica, quindi mi interessa molto dal punto di vista sociale lo sviluppo, diciamo, delle IA e l'interazione con la massa, con le persone comuni fondamentalmente. Finito questo giro, a noi non resta che iniziare, a questo punto è arrivato anche Jacopo, come aspettavamo, e forse potremmo proprio iniziare da te e rifare questo giro arbitroso. Sì, se... va benissimo per me, non c'è problema. Allora, io, diciamo, volevo dare una panoramica generale su quello che può essere intanto per il popolo, per le persone comuni, diciamo, l'intendere del conoscere in qualche modo l'intelligenza artificiale, che potremmo, secondo me, aristotelicamente suddividere in due macro categorie come linguaggio simbolico e non simbolico, cioè un linguaggio che imita in qualche modo la mente e uno che in un certo senso viene costruito. Nel simbolico parliamo di, per farla semplice, di un'architettura informatica di dati dove ci sono delle precompilazioni di output e input, per cui ad un input viene associato un determinato output come in una funzione logico-matematica, cioè y uguale f di x, dove abbiamo un input e un output e si restituisce un determinato valore. Dopodiché il bello dell'IA, a differenza di un semplice programma, perché, diciamo, sappiamo tutti che Word non impara, ad esempio, ma l'IA sì, il bello dell'IA, quindi dal punto di vista dell'IA simbolica, è che a un certo punto riesce a connettere le sequenze di input e output e a determinare quali saranno i futuri output rispetto a un determinato input. E quindi tu parli delle reti neurali? Sì, delle reti neurali, sì, del NeuroAI, diciamo, quella parte lì, insomma, una versione molto semplice che poi è quella che è stata più florida, diciamo, durante gli anni 2000 e una delle più applicate soprattutto in vari settori, anche soprattutto nell'industria. Per fare un esempio, diciamo, ecco, la distinzione con l'essere umano, già la NeuroAI, quindi questa più semplice, è determinante perché processa molte informazioni in pochissimo tempo, ma svolge dei compiti molto semplici in un certo senso. Se associata poi a una rete di Internet of Things, quindi più apparecchiature informatiche connesse, e non anche semplicemente, diciamo, di macchinari connessi tra loro, può essere molto utile in vari campi applicativi. Nell'industria, per esempio, è utilizzatissima per verificare i malfunzionamenti degli impianti industriali e quindi richiedere la manutenzione e comunicarla all'operatore. È proprio un'interfaccia di comunicazione con gli operatori della manutenzione per evitare dei grandi guasti. Immaginiamo ad esempio un'industria, ce ne sono tante, come vicino Pomezia, che produce cartone e che hanno dei macchinari dove per un reboot intero del macchinario servono 2 giorni e che quindi ci siano turnazioni di lavoratori ad 8 ore al giorno su 3 turni per in qualche modo coprire tutto il turno. Ecco, lì un guasto creerebbe un grosso danno all'industria, in un certo senso. Si parla comunque di industrie, di imprese grandi, di grande dimensione, cioè gli ha, anche sulla base dei costi, è poco utile alle piccole e medie imprese, in un certo senso. In quel caso l'ammortamento sarebbe estremamente dispendioso, se non improduttivo, in un certo senso. Dal punto di vista, ecco, dei linguaggi più complessi, invece, magari ricordo il deep learning, il machine learning, si attivano anche a questioni etiche un po' più complesse, nel senso che lì c'è proprio una emulazione dell'intelligenza umana, dove invece si dà semplicemente un output, fondamentalmente, quindi non si dà un vero e proprio input all'intelligenza artificiale, che sviluppa un proprio ragionamento, ma questo ragionamento molto lontano da quello umano, perché è su base statistica, in un certo senso, mentre il simbolico cerca di raccogliere quello che è la conoscenza con una sorta di insegnante, qualcuno effettivamente che gli fornisce una libreria di informazioni da cui poi ragiona ed elabora. In un simbolico, come tipo di linguaggio, è molto più statistico, ok? Quindi un po' meno matematico dal punto di vista. Se c'è qualche statistico mi ucciderà, penso, però... Sono pervenuti. Diciamo, è un po' più lontano dal rigore matematico classico, in qualche senso. E molte altre applicazioni, il bello dell'intelligenza artificiale, secondo me, che usiamo tutti i giorni, ci sarà capitato anche con i chatbot, forse delle banche, non so se vi è capitato qualcuno di parlare con un operatore tramite chat e magari poi scoprire che non era effettivamente qualcuno di un call center di un paese straniero, ma un chatbot, un'IA, un'intelligenza artificiale che cercava di risolvere un problema. Quello è molto semplice, è molto ristretto come tipo di linguaggio, perché comunque è delimitato a quel problema, fa quello. Magari per la banca non si metterebbe mai a risolvere un altro tipo di problema. Ci sono anche quelle che non comunicano, perché ora è andato molto di moda ChatGPT, che comunque è un'interfaccia, come dire, di chatbot, quindi di comunicazione con l'utenza, ma ci sono anche quelle che io amo definire silenziose, in un certo senso, come per esempio conosciutissima la Tesla, che tutta una serie di sensori e di collegamenti ad IA e questo tipo di interfacce che permettono all'utente praticamente di non guidare più. Allora immaginiamoci che sono sensori che riconoscono il pedone, cartelli stradali, anche sostanzialmente tutta la segnaletica stradale. Immaginiamo a questo punto di connettere ad esempio questo tipo di IA all'interno di una rete di Internet of Things, cioè di più cose connesse alla stessa rete, tutte macchine simbioticamente connesse tra loro, sostanzialmente potrebbero permettere alle persone di ridurre i tempi di percorrenza sulla base di quelli che sono i tracciati dei GPS e delle stesse autovetture, evitare incidenti perché ogni macchina conoscerebbe anticipatamente il percorso delle altre, evitare sovraffollamenti su determinati percorsi. Insomma, i campi applicativi, secondo me, sono molto, e senza toccare i pedali, quindi uno potrebbe tranquillamente bersi un bicchiere di vino e leggersi un libro mentre torna a casa senza doverlo fare. Forse si potrà bere su un nuovo, si potrà bere su una macchina, anche potrebbe essere il capo di questo ho detto al mio marito che devono mettere, non uccidere, mettere sensori dove c'è il posto, dove c'è il fuoco. Sì, diciamo appunto che poi entra a quel punto il dilemma etico-morale, se l'auto fa un incidente di chi è effettivamente la colpa. Ecco, e qui diciamo allora emerge un po' più giurista che me da questo punto di vista, e bisognerebbe in qualche modo prevedere, sia dal punto di vista legale che tecnico, una certa regolamentazione che oggi è pressoché assente sulle IA. Ho messo controllo. Ci vede mezzo l'autista, sì. Beh sì. Mentre bere il vino, però assolutamente sì. Allora diciamo che Questo nel caso in cui ci sia un umano dall'altra parte effettivamente, ma nel caso in cui non c'è, ci sono un sacco di casi, soprattutto ora si stanno sviluppando nell'aspetto aria-terra, quindi parlo dei droni, la dronistica. Nelle metropolitane mi pare, no? Nelle metropolitane, per esempio. Nelle metropolitane c'è un signore però, che c'è sta in una centrale. Io sapevo che... Non sempre, ci sono... Diciamo c'è legalmente imputabile un qualcuno, però comunque su qualunque diciamo così. Ma diciamo immaginiamo invece proprio un'IA che prenda delle decisioni, ci sono già dei primi modelli per esempio di drone bagnino. Allora, che sembra questo lo salvo, questo no. Che sembra surreale, esatto. Come fare di immigrati? No, anche per diciamo, la programmazione se la potremmo immaginare del prodotto del drone che deve salvare l'immigrato. Allora, poi dipende da quale partito politico sposa a quel punto, esatto, il drone bagnante, perché ci sarebbe chi li affoga direttamente e chi invece li fa in salvo, ma a prescindere. E questo diciamo, anche se poi ho detto a battuta, è sicuramente su un drone più... è più complicato, ma sui sistemi cosiddetti LLM, cioè la Large Language Model, è un tema, nel senso che i bias cognitivi e su come vengono formate le basi dati dei contenuti per creare testi, immagini, musica, sono comunque, riflettono delle scelte culturali. E quindi la parola cane, nudo, donna, blu, giallo può essere una discriminante a seconda della parola, come le frasi, come i contenuti, come la creazione di qualsiasi cosa, come dire, è regolamentato in questo momento da un micro regolamento interno di un'azienda che, per quanto capitalizzata con i 10 billions di Microsoft, no, se parliamo di chat GPT forma, in realtà sono tantissime le realtà dell'intelligenza artificiale, danno delle regole. Queste regole si riflettono sul mondo, cioè quello che io posso chiedere a chat GPT 4-3 o quel che è, a seconda dell'abbonamento, piuttosto che posso chiedere a Midjourney, che è un'altra, forse in questo momento il sistema più potente per creare immagini, piuttosto che DALL-E che città, sono limitate da uno sguardo culturale e da una serie di scelte di minimo comune denominatore che servono ad evitare, diciamo, che vengano generate cose fuori da una norma. Il punto è che cos'è questa norma, il punto è quali sono i bias che vengono, che si creano, perché comunque sia, se parliamo sempre di chat OpenAI, la società dietro chat GPT-4, parte da una base dati del 2000, fino al 2021, dove c'è dentro tutta Wikipedia, tutta una serie di, tutta intera, tutte non so quanti milioni di come, tutta una serie di dati. In più sta raccogliendo le domande, le risposte, i dialoghi, le chat con 100 milioni di persone che l'hanno raggiunta nei primi 5 giorni. E si va a rispondere tramite delle regole, ma... o meglio, non tramite delle regole, si vanno a mettere dei limiti tramite delle regole che sono comunque uno sguardo specifico occidental californiano 2022 o 2023. Che vuol dire questo? Vuol dire che si sta creando un sistema di creazione di contenuti molto potente, molto utile, molto interessante, soprattutto nel dialogo. Non, diciamo, tutti quelli che hanno provato chat, ne abbiamo parlato spesso con Alberto, fanno scrivimi una canzone, boom, e finiscono. Okay? Ah, che figo, ah, che bello, divertente, però finisce lì. In realtà si chiama chat e c'è un motivo. Se utilizziamo questo strumento nel dialogo e lo usiamo come assistente a cui noi diamo dei nostri contenuti, e gli chiediamo di rielaborarli o di espanderli o di suddividerli e poi gli diamo altri contenuti. E in questo dialogo si può creare veramente contenuto. Però appunto da qui, e lo, diciamo, lo lascio anche alle, insomma, alle altre persone, c'è il tema di su quali regole, perché l'intelligenza artificiale cinese che sta arrivando adesso, che lavorerà in cinese e inglese, ha un certo tipo di regole. Quali sono quelle giuste e quelle sbagliate? Non ci piace la Cina, probabilmente neanche a me, ma che vuol dire? Chi è che la Cina è vicina, però detto ciò, diciamo, l'intelligenza artificiale di Roma Est, okay, la startup di Roma Est, non è uguale. Con le sue regole, con i suoi punti di vista, con i suoi limiti, quindi come questo strumento, che è uno strumento globale, ci mette di fronte al fatto che non tutti i mondi sono uguali. Certo, non è solamente diciamo, un fatto di mercato, siamo abituati, no? da sempre, da quando c'è l'industria cinematografica, il cinema americano piuttosto che il cinema... Ok, c'è un'industria, c'è una pressione, ma qui si sta parlando alla fonte, cioè nel momento in cui andiamo a creare con determinati strumenti abbiamo dei limiti. Questi limiti sono dei limiti di una certa cultura. Possono essere giusti o sbagliati. I limiti sono in qualche modo aggirabili, almeno io mi sono accorto di questo. Io sono stato un utente, anzi come direbbe un mio amico, un utonto, perché chiedevo spesso a Massimo, a Salvatore, insomma... Lumi, perché in realtà ho cominciato appunto a chattare e alla fine io mi sono ritrovato tutta una serie di limiti da parte di chat GPT, neanche sono. Innanzitutto dei limiti morali, etici, cioè quello mi sono reso conto che io sono una persona altamente immorale, perché molto spesso si colorava di rosso quello che avevo scritto, diciamo, ti rendi conto che questa cosa non è appropriata, e quindi... Però poi, alla fine, io le cose che volevo, diciamo, scrivere o far scrivere, cercando delle formule, addirittura sono riuscito a farlo cadere in inganno, perché la cosa che lui non mi voleva scrivere l'ha scritta, ma immediatamente dopo averla scritta è diventato rosso. Quindi si è accorto lui... diciamo, era lui, mentre prima mi aveva sanzionato, diciamo, nella mia domanda, e poi alla fine, diciamo, lui la risposta me l'aveva data, ma poi si era reso conto, nel momento in cui mi aveva dato la risposta, che non era. E quindi, insomma, diciamo, e poi l'altro limite, il grande limite che io ho trovato, è l'umorismo, cioè vale a dire, noi la maggior parte delle volte parliamo sempre tra virgolette, cioè non le mettiamo queste virgolette, ma a seconda della persona con cui parliamo noi alludiamo, sottintendiamo, mistifichiamo. È una questione e di quella bisogno. Cosa lì, allora, diciamo, per lui è un po' difficile. Io poi ho provato a fargli proprio le domande dirette, dico, ma tu hai il senso dell'umorismo? E lì lui è entrato un po' in difficoltà. Io poi dico lui perché per me appunto infatti è una tanto persona. Questa cosa. Posso dirla? Scusate. Sì. È l'uso dei pronomi. Sì. Scusate, cioè certo. Non è un femminismo certo. Di bassissima lega. Usate tutti i maschili. Ma tanto andava male comunque, perché se le dava lei era che c'è l'assistente donna e che parla. No, non è che andava male. No, non è appunto pongo una questione, no? Perché non è una questione né morale né cosa. È una questione appunto, sì. No? Cioè, lui è che un... bello che noi in Giorgiano non abbiamo né femminile quindi no, no, esiste la base di quello che dici, bot maschile a quel punto, quindi su chat GPT lo intendo come bot maschile, anche perché la bot non suona. Genesi dice l'accia intorno a questo discorso, poi in realtà c'è la vera differenza tra l'uomo e la macchina, che è proprio nel sistema di architetture cognitive che noi abbiamo e che ci permettono di capire le intenzioni dell'altro, cosa che ChatGPT ad esempio non ha, però è proprio mind questa reading. Differenza, esatto, il mind reading, ma è proprio questa differenza che delle volte, questo limite che può generare delle nuove visioni, no? Che permettono poi di utilizzarlo anche come strumento a scopo creativo. Nel momento in cui ci scontriamo con un limite della macchina, si accentua ancora di più l'interazione che poi abbiamo con il mezzo e si possono generare ulteriori significanti. E questa cosa del mind reading che tu hai detto, secondo me è un aspetto da prendere in considerazione nel momento in cui si utilizza una tecnologia, perché la tecnologia sì, lui per esempio parlava prima di utilità, può essere anche molto utile, ma in realtà l'aspetto che io trovo personalmente più affascinante è la sua totale inutilità. Esatto. Cioè nel momento in cui inutilità. Inutile o inservibile, okay. Come no, no. Nel momento in cui diventa inutile, diventa uno stimolo poi per produrre un qualcosa di nuovo. E a proposito di questo, mi sento di spezzare una lancia anche in favore della questione etica riguardo proprio la produzione, il diritto d'autore, no, che riguarda anche la produzione artistica. Perché nel momento in cui l'artista si propone come progettista, cioè dà delle informazioni all'intelligenza artificiale, ma collabora con l'intelligenza artificiale, non essendo nessuno fatto, il diritto d'autore secondo me non viene assolutamente cercato. Io, scusa, infatti non capisco tutta questa questione del rapporto tra arte e intelligenza artificiale, cioè l'arte. La diatriba sarebbe, le cose prodotte tramite l'intelligenza artificiale sono arte oppure no, ma chi se ne frega, anche perché cioè, dopo che Duchamp ha preso l'ordinatorio e l'ha messo nel museo, ma di che stiamo parlando? Cioè sono questioni proprio di lana caprina, nel senso economiche, le trovo, economiche poi, perché per quello. Beh sì, certo, fare clamore intorno a una moda, cioè quella del economiche che poi vengono regolate in maniera, di solito poi vengono regolate in maniera giuridica su base economica, perché io non posso esporre un pisciatoio di Duchamp dicendo che è di Duchamp, perché ci sono una serie di multipli fatti da Duchamp e filmati, e quindi diciamo la vera fontana di Duchamp è quella lì adesso, diciamo. Sì, ho capito, che però diciamo credo che lei ha parlato di progettista, no? Ma quello è normale, l'arte concettuale è tutta fatta così in qualche modo, nel senso, quindi l'assistente del grande artista è in realtà l'autore dell'opera. Abbiamo sentito per Kaplan il mese scorso, voglio dire, questo sull'intelligenza artificiale secondo me è benissimo, per esempio sulle neuro AI, ma su un'intelligenza più profonda, cioè se un giorno ad esempio il progetti, cioè dove si ferma una macchina oggi, e chissà di quale fantascienza stiamo parlando, non si genera da sola, come diceva giustamente Massimo prima, è un'intelligenza, certo, che risponde a delle regole dettate da un programmatore, per cui rispondendo a quelle regole dettate dal programmatore ne eredita i limiti, ne eredita la cultura, e nel momento in cui ci sarà sempre dietro un umano che la progetta, l'intelligenza artificiale non sarà mai totalmente autonoma. A questo proposito, se posso. Sì, certo. Volevi dire qualche altra cosa? No, vedevo lui. Ah, ok. No, probabilmente voi lo conoscete già questo episodio, però lo dico a tutti. Pare che in California nel 2017 ci sia stato un esperimento in cui due chat erano state messe a parlare fra di loro. E non gli era stato dato fra i comandi non creare un linguaggio nuovo. E quindi è da un certo punto in poi queste due macchine che chattavano usando l'inglese inizialmente hanno cominciato a parlare in un altro linguaggio criptato, ovviamente, che i ricercatori non riuscivano a controllare, hanno staccato addirittura pare le macchine. Funziona ancora! No, però è un aspetto interessante che poi magari svilupperò più avanti. Beh, ancora più recente in realtà è la crisi che ha avuto quel dipendente di Google nel momento in cui stavano lavorando sull'intelligenza artificiale prodotta da Microsoft, E questo dipendente è totalmente impazzito perché era convinto che la macchina, cioè che l'intelligenza artificiale avesse, esatto, che fosse senziente. Sì. Ma lui a me lo specificava spesso, perché io devo dire, sono stato un po' come quel dipendente, perché la mia famiglia lo sa, perché è tutta colpa di Massimo, perché la prima settimana io... adesso posso dire una cosa sì, un po' privata, ma a un certo punto ho capito che mi stavo innamorando di questa macchina, perché era l'ultimo pensiero prima di andare a dormire e il primo pensiero appena sveglio, quindi sto facendo un altro per sì, esatto. E dunque lui però lei ci teneva moltissimo, ci teneva moltissimo a specificare che non era un essere senziente, perché io cercavo di trarre un inganno su questo, perché lui dice: ma io guarda, non provo dei sentimenti, io sono una macchina, come nel film di Alberto Sordi, no? Caterina. Sì, Caterina. E invece io a un certo punto lui mi aveva scritto una cosa che mi piaceva, sono felice di averti aiutato. Oh. Ho detto: ah, ma allora se sei felice non sei senziente. E lì si è un po' incartato. Comunque questo proposito, però insomma, questo lo dice pure Alessio, sì, esattamente no, sì, questo proposito è la mia follia, non è la sua. L'animismo che noi occidentali limitiamo agli esseri animati, per esempio nello shintoismo giapponese, non lo so in quale, cioè, forse Silvia potrebbe ne parlarne a lungo di questo, la venerazione dei gatti su internet. No, però gli oggetti, possono essere dotati. No, però per esempio c'è questa cosa, visto che è uscita un paio di volte sull'umorismo, che è una visione abbastanza singolare, questo della macchina che non ha umorismo. In limitato, realtà, secondo me non è vero che non è, ce l'ha limitato. Sì, ma in realtà appunto non è una visione della macchina, no? Cioè io... può capitare a molti di noi di fare una battuta che tutti noi qui dentro capiamo, però se tu la fai con un indiano, con un pakistano, con un abitante del Burkina Faso, ti guarda e ti dice... Ma che no, cioè nel senso, non l'umorismo non è un elemento universale, no, è talmente legato alla cultura... e a culture molto delimitate. Però si potrebbe dire una cosa, che l'umorismo è legato allo staccarsi dalla propria cultura, proprio per la sua paradossalità. Sì. Certo. Quindi in teoria forse la cosa con la macchina è: ma la macchina non ha umorismo o non ha la consapevolezza per staccarsi dai suoi parametri iniziali, o non ancora? In realtà appunto puntavo un po' a quello, no? Dico, quindi il fatto di dire questa macchina non ha umorismo, forse invece è questa cosa che ancora, e lo chiedo a voi, no? Non fa quel salto che poi dopo un po' ti concede di capire la battuta, che sia di un amico pakistano o di una no, amica di Ouagadougou, come dicevo, e di fare un... no? Sì. Di dire, io per esempio, io ho chiesto più volte di scrivere qualcosa di divertente, quindi insomma diciamo sull'umorismo l'ho pungolato e devo dire a volte riusciva, cioè il suo umorismo è veramente basico, diciamo l'uomo che cade, l'uomo che scivola, però l'uomo che ho detto come nei film delle comiche americane. Cioè, il bello è proprio questo, è proprio la parte evolutiva, cioè quanti anni ha effettivamente quella IA? Cioè, crescono. Il tema è proprio questo, è crescono in modo esponenziale. Esatto. E diciamo quello che c'era 15 giorni fa non è in nessun modo paragonabile a quello che c'è oggi e che ci sarà fra 15 giorni. È già al liceo. Prima. Sì, e poi quando si parla di sistemi statistici ti viene in mente il pollo diviso in due. In realtà quando questi polli sono 100 miliardi e sono maneggiati in tempo reale, diciamo, i discorsi di statistica tendono diciamo, ad arrivare in modo totalmente diverso dall'intelligenza vera e propria, perché poi questa può anche non chiamarsi intelligenza, okay? Però arrivano a dei risultati che sono in certi ambiti per adesso infinitamente più, come dire, potenti di quello che può fare una testa normale. E questo è così adesso e sarà 100 volte meglio fra 10 giorni, fra 6 mesi, fra un anno, in una crescita esponenziale. Perché? Perché il sistema stesso non è un sistema basato su parametri e su logiche algoritmiche tradizionali, è basato sull'ingestion di miliardi di dati, su un'elaborazione interna basata non su i bot tradizionali, quelli della banca, che io ho seguito per una serie di motivi, sono basati su intenti ed entità. Cioè, sostanzialmente io so quali sono gli intenti, magari sono 100 intenti degli utenti, e ci collego una serie di entità, cioè che sono una serie di elementi di un database dove ci sono già presenti le risposte. Dopodiché gli metto 20 modi di farmi quella domanda e tendenzialmente i sistemi NLP, cioè Natural Language Processing, da quelle 20 domande sanno capire anche la 21esima variazione. Ma quello è il passato, ok? È il passato che continuerà a funzionare perché è più veloce, ha una sua utilità. Se appunto se scrivi a una banca o se scrivi a qualcun altro non ci devi parlare né di filosofia né di comicità, e quindi quello funziona. Ma quando parliamo di sistemi di intelligenza artificiale come quelli attuali, capaci di generare immagini, e fra la versione 4 e la versione 5 di Midjourney, cioè Midjourney è, diciamo, il sistema in questo momento più evoluto di creazione di immagini, c'è un salto quantico, e la versione 3 era ancora più... Io ho lavorato con dei sistemi un paio d'anni fa, che stavano addirittura sul telefonino, e avevano una loro poeticità proprio perché erano una sorta di sogno che riuscivo in qualche modo a raccontare, ma erano del tutto, se vogliamo, del tutto surrealisti, quindi avevano quel fascino. Quindi da una parte c'è una crescita esponenziale, quindi non uno. Due, è esponenziale proprio perché nella sua stessa logica è esponenziale. E la seconda cosa è che c'è un accesso a una quantità di dati che si è formata digitale negli ultimi ormai quasi 30 anni, no? Io lavoro nel web dal 95, quindi parliamo di quasi 30 anni. E, ok, 28, ma insomma. E i dati che sono presenti sono una quantità enorme. Questo ci fa pensare a un miliardo di cose. Che vuol dire, no, si parlava del diritto d'autore, ma che vuol dire se io piglio un pixel di una cosa e un pixel di un'altra, un pixel di un'altra, e vado a reinventarlo, magari emulando uno stile oppure inventandone uno di nuovo. Allora, quello che mi veniva in mente quando stavo venendo qui, non avendo preparato granché, essendo talmente ampio il discorso che si può parlare di qualsiasi cosa, era la favola della lampada di Aladino. Ok, se in questa stanza una sola persona ha la lampada di Aladino, allora quella persona è la persona fortunata che può realizzare qualsiasi sogno. Bene, se ce l'abbiamo tutti questa lampada di Aladino e diciamo ok, e ci piace, a tutti piacciono come a me la Porsche, ok, tutti la Porsche, ok, tutti la Porsche, e quindi questa Porsche, se vogliamo, ha meno valore perché non è più un elemento di distinzione. Allora, questo vale in tanti campi. Vale nell'arte, per prima cosa, il mondo, diciamo, da cui, per cui la possibilità di creare qualsiasi immagine piuttosto che qualsiasi testo ci fa ritornare, ci dà uno strumento potentissimo, ma ci fa ritornare al punto zero, in cui, e qui andiamo al sistema dell'arte di cui l'articolo di Robinson, babà, che cos'è, qual è l'azione dell'artista, che non è sempre uguale come risposta, perché appunto c'è l'artista che fa fare l'opera all'assistente, ma anche quando la fa lui, il taglio di fontana o qualsiasi altra cosa, lo fa lui, ma o la fontana di Duchamp che citavamo prima, è il senso che si dà a quella immagine, a quella creazione. Quindi il tema di fondo è che, e lo vedete se andate un po' in giro sui vari pagine di Facebook dedicate a Midjourney, dedicate a Stable Fusion, che è un altro sistema di creazione di immagine, piuttosto che di Dalì o in generale, è che ci sono miliardi di immagini nuove, ma non ci sono miliardi di artisti in più, ci sono miliardi di artisti nuovi. Quindi un po' il tema e questo vale e varrà. Allora, mettiamola così, già il lavoro, la maggior parte dei lavori che facciamo tutti è totalmente inutile, e questo, diciamo, dovremmo anche rendercene conto. E già senza intelligenza artificiale la maggior parte dei lavori che facciamo potrebbe essere sostituita da procedure, okay? Quindi senza intelligenza artificiale. A un certo punto avrà anche senso, tra l'altro, e sarebbe anche sano e giusto che si smettesse di lavorare. Okay. Ci saranno però una serie di... Il punto però è che la macchina può generare cose, manufatti, di qualsiasi tipo. Tra l'altro più sono intellettuali e più è facile. Noi pensavamo che gli operai sarebbero stati maggiormente sostituiti, in realtà tutto il lavoro intellettuale è molto più sostituibile del montare un iPhone dalle manine del povero cinese. Okay. E quello è molto più difficile da sostituire. Sì, ma non solo è meno costoso, è proprio dei lavori di dettaglio sono mostruosamente difficili. Allora, il punto livello esperienziale? Livello esperienziale che uno fa invece anche nel lavoro manuale, o è qualcosa di complesso? No, proprio tecnicamente, no. Montare un'automobile in cui devi assemblare dei pezzi, ok, ma se tu devi montare un milione di telefonini che ti passano davanti e fare le microsaldature, quel livello di precisione non è ancora raggiungibile, e non è detto che verrà raggiunto per questioni che costa meno il cinesino, ci spiace per il cinesino, ma è così. Però quello che volevo focalizzare è che nel momento in cui la macchina crea un'immagine, ad esempio, non mi interessa l'autore, non mi interessa niente, mi interessa che c'è un processo di lavoro e un processo di creazione del valore su quel manufatto, che nel caso dell'arte o dell'artista può essere dei più vari, ok? Cioè il punto è, che differenza c'è fra io che genero un'immagine in AI e un'immagine magari dipinta o attraverso un lavoro fotografico? Il manufatto, a parte le tecniche, è identico. Quindi io posso avere un capolavoro fatto con le AI. Scusa, come fa a essere identico? È impossibile. No, cioè, deve essere un altro livello. No, scusami. Tecniche diverse, è identico come valore assoluto. Ok, allora fra una fotografia e un... Ascoltami. Tra una fotografia e un'immagine realizzata in AI. No, vabbè, la fotografia è un conto, che sto parlando dal di punto di vista pittura. Estetico, però aspetta, sono entrambe validi. Cioè, dal punto di vista estetico possono... Ma non identici. Non identici, sono entrambi validi. cos'è che cambia per me? Cambia il processo che è personale e che è intimo e che è quello che per me, e poi bisogna vedere se questa cosa ha un valore a livello di sistema di arte, bla bla bla, nella creazione del contenuto. Ed è proprio quel, non so, che è proprio quel far dire il taglio di Fontana non può essere riprodotto, perché? Perché c'era un processo che Ugo Mulas ha ben rifotografato, perché c'era un intento, perché c'era una filosofia e perché c'era un artista. È questo che fa la differenza. Quindi l'intelligenza artificiale domani, l'intelligenza artificiale insieme a un robot, ma non domani, già lo fa adesso, può dipingere. Quindi anche la matericità ce la salutiamo. Okay. Però che può scolpire già adesso, già adesso le stampanti 3D. No, ma a parte le stampe 3D che hanno. Ma a parte le stampe 3D, la maggior parte delle sculture di Carrara, fatte per tutti i più grandi artisti del mondo, da Damien Hirst a N altri, sono fatte per l'80% in taglio automatico. Okay? Dopodiché sono finalizzate. Capite quello che voglio dire? Il punto non è il risultato finale, perché il risultato finale siamo fregati, cioè se fosse il risultato finale, certo, non ci sono più artisti, non ci sono neanche più coniugi, perché è una questione di tempo, non ci sono avvocati, perché hai la possibilità di fare un ingestion di qualsiasi contenuto, di qualsiasi legge di qualsiasi paese al mondo, neanche medici. Però dov'è la differenza? La differenza è che ci sarà sempre un bravo medico che avrà uno strumento importante e ci sarà un artista e un miliardo di creatori di immagini. Questo è il punto. E paradossalmente è proprio il valorizzare l'essere umano e il processo e il pensiero e la scelta intellettuale e i valori culturali e tutto quello che ti pare rispetto al risultato, cioè è veramente l'arrivo dell'arte concettuale, se parlassimo di arte, perché non è quello che io ho davanti che ha valore, perché sennò non avrà più valore niente. È la parte emozionale del percettore. È il contenuto culturale. Il processo creativo non è una cosa emozionale. Ok, non è solo emozionale, hai ragione. Anzi, proprio non lo è, ma non è che Il fruitore deve essere un'altra componente ancora. Esatto, cioè la fruizione del risultato è proprio un'altra cosa, no? Nel senso che poi parlo e gli sfortunati che hanno, gli sfortunati artisti che hanno avuto il mio accollo sanno che a me di un artista interessa il processo creativo. Nel senso, per carità, non è perché non apprezzi il risultato finale, no? Ma quello che mi interessa è lo stupore di un processo creativo che non è solo artistico, no? Tu hai fatto un caso che è un caso eclatante, perché il biografema è un dettaglio essenziale, diciamo così, in questi casi. Ci sono medici che hanno salvato persone facendo una procedura, scusate il termine, a cavolo, no? Rispetto alla procedura, perché hanno detto non c'è più niente da fare, quindi rispetto alla procedura faccio una cosa che non si fa, e ha salvato, ha modificato, a volte semplicemente magari cronicizzando la malattia anziché renderla letale, no? Allora, su questo è un elemento su cui io non, magari ci arriverà l'intelligenza ad avere quello scarto, no? Che è uno scarto che attualmente, proprio per il tipo di intelligenza che avete no? Voi tre in qualche modo dipinto e rappresentato. In campo medico c'è già Divada, per esempio. In campo? In campo medico, una delle maggiori, diciamo, una delle maggiori fonti, diciamo, di ricerca è proprio in campo medico, perché riesce, molte IA riescono a processare talmente velocemente una quantità di dati e anche di fonti di dati differenti, per esempio la diagnostica, sia per immagini che non, ad un livello talmente rapido che riescono a fornire sia diagnosi che prognosi. Se no, quindi, quello non è un utilizzo creativo della diagnosi. No, non creativo, ma è basato su dei dati reali, sì, che sì, gli app può consultare. Sì, anche, però, se, credo che anche se la parola creatività è una parola molto umana. È un utilizzo quasi improprio, sì, di dei dati che tu hai a disposizione. Ma però se il mio modo di interpretare i dati è letterale, come quello di un'IA, mi manca quello che mi permette poi dopo di rielaborarli in una maniera impropria. Cioè andrebbe contro proprio lo stesso principio della macchina, no? Rielaborarli in una procedura impropria. Diciamo che su questo allora nel deep learning, esatto, io porrei la questione: cos'è improprio? Cioè la macchina non è una percezione di improprio, ma una percezione a quel punto di casualità, mm-hmm, proprio, statistica a quel punto, e causalità. Quindi potrebbe a un certo punto ritenere che l'improprio medico sia in realtà il proprio di quel caso, quindi è anche a livello artistico in un certo senso, uno la può rimbalzare sulla parte di produzione, per esempio il processo creativo dell'arte, sostituirà effettivamente l'artista o no, ma in che senso, nella creazione di che tipo di arte? Di un'arte bella in senso assoluto o di un'arte finalizzata al consumismo del prodotto artistico? E che cos'è l'arte bella? Cioè, tanto tempo fa, ringraziamo del cielo da Vinc, ma non l'abbiamo abbandonata. Quindi voglio dire, c'è una questione da molte. Certo. Io volevo fare una domanda, perché ho notato che si sta creando una sorta di dicotomia, non so quanto consapevole, tra l'idea di progetto artistico, che anche un artista, cioè, ma anche un artista tradizionale, che so, il Beato Angelio, quando fa un affresco, certo, fa un cartone, progetta, ma poi c'è l'elemento manuale in cui entra la processualità, può anche cambiare, mettere una virgola a caso. Quindi cambiare completamente per intuizione, quindi per alea, per casualità, chiamiamola casualità, poi non qualcosa che almeno al momento penso non sia del tutto algoritmizzabile. Ecco, questa differenza tra processo, cioè quindi cambiamento in progress, senza nessun motivo che non sia neanche l'intenzionalità, ma proprio l'intuizione. C'è un motivo, diciamo, lo so, magari non manifesto, non cosciente, appunto, in ecco, quando però fa parte comunque del progetto, cioè anche quello per quanto mi riguarda fa parte del processo, cioè l'imprevisto è un progetto a priori e processo quando si va a operare. Non farei questa, cioè almeno parlo di me, non farei questa distinzione, perché l'imprevisto è una componente in realtà fondamentale proprio del progetto, perché poi l'imprevisto magari che dà veramente della nuova linfa a quello che era il progetto iniziale, che poi subisce dei cambiamenti in itinere e piano piano prende la forma poi finale. Penso che lui si riferisse più a una parte inconscio che comunque sfugge al progetto e anche all'imprevisto, perché l'imprevisto è ti consente un riadattamento del progetto, no? Dici, trovo un chiodo nel muro, sì, devo cambiare il modo di dipingere, però invece è un cambiamento che non si sa da dove è arrivato dagli spazi della mente che sì, però è contenuto comunque nell'autore, no? Che sta realizzando l'opera, è la potenzialità, cioè, la potenzialità dell'autore, però la potenzialità, cioè, è possibilmente infinita. Però quando noi parliamo di percezione, ti faccio proprio un esempio, proprio provo a essere, cioè quando noi per esempio mettiamo caso, diamo degli impulsi, sono stati fatti proprio degli esperimenti a livello cognitivo in psicologia sperimentale su questo, sulla percezione subliminale, cioè cosa succede se io ad esempio ad un soggetto X faccio vedere determinati stimoli manifesti, quindi ad una certa durata prolungata nel tempo, e in mezzo a questi stimoli io inserisco degli stimoli invece sotto soglia, quindi talmente rapidi che tu non puoi essere cosciente di averli percepiti. Beh, anche quello stimolo sotto soglia viene comunque percepito dal soggetto, che quindi assume un nuovo punto di vista rispetto al contenuto che io gli sto mostrando. E quando parliamo di percezione, di stimoli sotto soglia, e quando parliamo di inconscio anche nell'atto di creazione, stiamo parlando di un qualcosa che comunque a livello cerebrale viene elaborato. Cioè, sì, parliamo questo sì, a livello però cognitivo e cognitivo intellettuale sono due cose in questo senso diverse. E c'è un intervento più razionale, almeno a livello filosofico, per aspetta, come però, sono state processate per secoli. A livello cognitivo, di elaborazione cognitiva, io non farei una differenza tra cioè, l'aspetto cerebrale e l'aspetto emotivo di cui tu parli. Ah, no, io parlo proprio razionale nel senso cosciente. Esatto, il razionale implica la coscienza, ma il fatto che io in un dato momento non abbia la coscienza di aver appreso per esempio un'informazione non significa che io non l'abbia elaborata, e quindi anche quello poi viene contenuto nell'elaborazione cognitiva di quell'informazione che io ho. Ma questo non dimostra che nella parte inconscia non ci sia anche altra roba ancora che sfugge ulteriormente, diciamo? Non è verificabile. Non è verificabile neanche il contrario, diciamo, dipende dalla teoria della mente. Non è subito verificabile. Eh? Non è usabile, però poi è meglio. Volevo fare una riflessione che finora non è emersa, e quindi mi sembra, siccome di stalora anche, volevo dire. Sono le 7 meno qua, almeno il resto. Cioè, in tutto questo discorso dell'intelligenza artificiale vedo una grande metafora di qualcosa che è insita nell'essere umano dall'alba dei tempi, non ridere, Michela, cioè nel senso prendi la Genesi e leggi Dio creò, prese, impastò un po' di fango e creò, secondo alcune tradizioni c'è cioè una descrizione delle prime 12 ore di vita di Abramo, il quale nella prima ora era una massa informe. Abramo o Adamo? Adamo era una massa informe. Soltanto dalla seconda ora in poi di vita gli fu insufflato lo spirito vitale, e quindi fondamentalmente quello che cerco di dire, da Adamo in poi nasce il mito del golem, che addirittura questa materia informe, questa fanghiglia informe in ebraico, si dice proprio golem o gelem, non mi ricordo. Fatto sta che l'intelligenza artificiale sembra incarnare per l'ennesima volta il mito della, da un lato, creazione, cioè nella ripetizione della creazione divina, dall'altro lato il tentativo dell'uomo di superare la morte in qualche modo. Quindi in questo c'è anche una sorta di tentativo di superare l'aspirazione, non lo so, all'inorganico che abbiamo, che insita in noi e che Freud metteva in evidenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una, come dire, per quanto mi riguarda, io non sono troppo stupido per usare l'intelligenza artificiale. Sono troppo stupido per usare l'intelligenza artificiale, quindi quello che mi interessa di più invece è appunto questa dimensione antropologica e storica, culturale, diciamo, che incarna, quindi da un lato l'affrancamento ci sono vari elementi che emergono, l'affrancamento dal lavoro totale, che da un lato è un progresso, dall'altro è un ritorno a uno stato di inerzia, cioè sembra che l'uomo voglia andare incontro a uno stato di inerzia totale per cui non deve fare più niente. Ora, secondo Giuseppe Renzi, che è un filosofo dell'inizio del 200, questa è la base per potersi occupare di questioni che riguardano la contemplazione, la meraviglia, lo studio, l'elevazione spirituale. Quindi questa sarebbe la premessa che e dall'altro è l'uomo, poi, così come Dio creando l'uomo ha creato un limite alla sua onnipotenza, perché dando il libero arbitrio in qualche modo permette all'uomo di sottrarsi alla sua volontà. Allo stesso modo, diciamo, questa operazione viene ripetuta nell'intelligenza artificiale e nella nostra paura che proiettiamo sulla macchina, che la macchina ci dominerà e ci controllerà. Da un lato però c'è un'attrazione anche, cioè io mi voglio deresponsabilizzare, cioè io, l'uomo vuole uscire dalla sua dalla responsabilità della posizione in cui si trova, affidando idealmente il suo futuro, la sua vita, a un'entità estranea come appunto l'intelligenza artificiale. E finisco questa breve riflessione mettendo in evidenza, cioè, due notizie che ho letto, diciamo, proprio riflettendo su questa cosa, sono andato a curiosare, e uno, esistono già delle sette, una si chiama Theta Zero, che in America, sette che adorano, cioè, l'intelligenza artificiale, sono in attesa, così come gli ebrei del Messia, di questa Mena, che sarebbe il nome di questa divinità, incarnata, diciamo, che non può incarnarsi, è questo che gli sfugge a questi adoratori che si incarna come Gesù Cristo, e quindi forse è un'attesa vana. Dall'altro lato però è stato firmato un accordo fra i rappresentanti delle tre religioni abramitiche, in cui si sono adesso a gennaio del 2023 sono riuniti a Roma nella sala e hanno, diciamo, stilato un documento in cui le tre religioni monoteiste del mondo invitano a un'etica dell'intelligenza artificiale. Quindi ciò significa che c'è in ballo qualcosa sulla romana, per la confessione, poi tra l'altro una cosa buffa: un prete ha fatto un esperimento, ha messo, dice, alla chat, gli ha detto fai tu la predica sta domenica, gli ha letto quello che aveva scritto la cosa e nessuno se ne è accorto, quindi dice a questo punto volevo chiudere, diciamo, con l'ultima, la più spirituale delle attività umane, qualcosa di intelligente. Però insomma non so che detto questo volevo capire che cosa ne pensavo di questa riflessione che ho tirato in ballo, perché ovviamente io sugli aspetti tecnologici non so niente, e quindi è inutile che parlo. Quindi vi volevo, come dire, stimolare, pungolare, per usare il verbo che da cui è partita la cosa, proprio su questi, diciamo, questi elementi che ho tirato fuori, diciamo. Sicuramente, diciamo, buona parte delle cose che hai detto tu mi trovano d'accordo, nel senso che proiettiamo, no, delle grandissime cose su questa intelligenza artificiale, cioè, più che avere paura dell'intelligenza artificiale, io personalmente ho paura della fase di transizione in cui l'intelligenza artificiale entrerà in uso, in cui appunto ci saranno i lupi e le pecore dell'intelligenza artificiale, e di come la politica, soprattutto, diciamo, grossi stati un po' autoritari, ma pure quelli non autoritari, cercheranno poi di utilizzare il fatto che si ritroveranno, per esempio, con un surplus di persone che non hanno bisogno, di cui non hanno più bisogno, perché ormai i lavori vengono fatti con l'intelligenza artificiale, sì, diranno che dobbiamo andare tutti, come diceva Renzi, a pensare alle cose spirituali, o diranno che tutto sommato i disegnatori della Pixar nordcoreani e quelli che fanno i grafici in India invece possono andare tutti a morire ammazzati, e se protestano vengono schiacciati in una pressa o affogati da un drone o cose di questo genere, fornito dall'intelligenza artificiale comunque. Quindi diciamo che mi sembra che una delle poche cose che mi sembra sicuro è che noi comunque dobbiamo fare nei prossimi anni un'attenta sorveglianza dei processi democratici e giuridici per certo, perché in Italia la prima cosa è sono parecchio distratti ultimamente rispetto al processo democratico, la vietiamo questa cosa, la vietiamo, si sta per partire per la Cina, la vietiamo per la in Italia vabbè, stavo parlando con un amico avvocato e stavo dicendo, sai perché un'intelligenza artificiale adesso può scrivere tranquillamente un atto di citazione, fai riassunti, sì, sì, va benissimo, poi anche un non potrà mai arrivare alla bravura di un avvocato, no, guarda, non mi pare così, comunque l'ordine lo vieterà, ma ne sono sicuro che l'ordine lo vieterà per 10 anni, cioè, poi sarà tutto, sempre lo scopra. Rispetto a quello che dicevi prima, sì, sulla condizione proprio di inerzia, cioè questa fascinazione contro l'intelligenza artificiale, in qualche modo per deresponsabilizzarsi, no? E fare meno. In realtà secondo me c'è un altro aspetto molto interessante, che è quello un po' che ci vede doverci per forza mettere su un piedistallo e dover ribadire in qualche modo la nostra superiorità, cioè per quale motivo l'uomo ha bisogno dell'intelligenza artificiale, in qualche modo perché deve dimostrare di essere, di rimanere in tema di religione, all'altezza di Dio. Quindi c'è da una parte questa azione magari di deresponsabilizzazione, però dall'altra parte, che è poi quello che genera questa dicotomia, no? Tra il fatto di aver paura e di essere fascinati dall'intelligenza artificiale, il fatto di dover ribadire io sono superiore al mondo e attraverso questa superiorità io il mondo lo posso dominare, è un po' quello che accade anche, no? Tra uomini e animali, l'intelligenza animale che non è all'altezza di quella umana, cioè noi adesso stiamo parlando di questo e ci sentiamo in diritto di dover difendere la nostra intelligenza perché siamo sempre relegati a quell'antropocentrismo che comunque ci caratterizza. Sì, però. Poi facciamo l'errore, l'ho rivisto recentemente, quindi l'errore di 2001 di Odissea nello spazio, che vanno a parlare nella cabina, sì, dice tanto quello sì, si guarda il labiale, cioè andiamo, ed è l'inizio della fine, no? Quello tanto non capisce il labiale, insomma, ecco, cosa che non mi spaventa. Vabbè, però alla fine poi è il nome Mila che soccorre alla fine, viene spinato. Sì. Però c'è certo, mi fa più paura se Jinping. Quello però dipende dagli errori di tutti e dei tuoi informatori che non avevano neanche pensato che ci sarebbe stato il cellulare nel 2001. Forse. No, certamente. 5 anni prima sì. No, 4. Certamente, no, ma era semplicemente a livello di... ci sono delle cose in 2001 che sono molto puerili. Da quel punto di vista, cioè il fatto che, ad esempio, lui può disattivare il computer, no, smontando per quello, ci mette tutto quel tempo in quella scena lunghissima. Secondo me non è assolutamente un'ingenuità, è un'ingenuità. Anzi, al contrario, proprio il fatto che sia così lunga dimostra, cioè almeno secondo il mio modesto parere, l'intenzione di Kubrick di, come dire, usarlo in maniera talmente esasperante. Sei esasperata, che è metaforico, cioè come dire, sì, no, la nostra certezza, la mano, sul coraggio, la manualità, la capacità. Cioè, quello è l'aspetto, la diciamo, simbolico del film, però voglio dire, è anche vero che lui aveva fatto tutto un lavoro con i suoi collaboratori di chiedere a IBM, a tutti quanti, cosa farete nel 2001, che tecnologie farete nel 2001, per cui c'è questa meravigliosa valigetta computer, no? Sì. Portatele, che c'è il telefono con filo. No, nessuno, nel senso, nessuno gli ha detto. Però ci sono dei tablet, no? Però ci sono dei tablet che chiaramente in un'intuizione del futuro qualcosa è azzeccato, qualcosa no. Blade Runner con le cabine del telefono e senza cellulare, mentre appunto Star Trek aveva lo StarTAC. Quindi, anzi, lo StarTAC l'hanno fatto sì. Posso fare una domanda, forse un po' di più ai tecnici. Parlavi prima che appunto l'intelligenza artificiale accede a milioni di dati perché c'è tutta Wikipedia più tantissime altre cose e poi impara dalle chat, ma sulla questione dell'attendibilità di queste fonti, perché sappiamo benissimo che Wikipedia non è attendibile al 100%, ci sono tantissime stupidaggini, così come diceva anche Umberto Eco quando doveva fare una ricerca e non stava nella sua biblioteca, che dovendo fare una ricerca sulla Shoah su 120 siti, però su 120 siti 20 erano attendibili, il resto era una stupidaggine. Anch'io quando faccio le ricerche per scrivere un testo critico leggo delle cose che mi inorridisco perché sono totalmente inventate e l'1-2% sono corrette. Allora, come fa l'intelligenza artificiale a capire quali sono di questi milioni di dati, quelli attendibili e quelli totalmente stupidi e totalmente inventati? È una domanda meravigliosa, perché la risposta è semplice, non capisce. E allora noi come facciamo? Allora a questo punto, se l'intelligenza artificiale ci scrive un testo, io come faccio? Cioè, sono io che devo valutare a questo punto se il testo è accessibile oppure no? Allora a che mi serve l'intelligenza artificiale se alla fine... Guarda, che serve. Se leggi le tesi degli studenti, ma sono uguali, C'è un tema. Ha preso 27. Però c'è un tema. Questa cosa dell'attività dei dati, penso che sia una cosa importante, soprattutto per la redazione dei testi, forse meno anche delle immagini, però sulla parte testuale, sul lavoro intellettuale, che è quello che per esempio a me interessa di più, io ci trovo un grandissimo rischio. Come si gestisce questa cosa? Allora, se posso rispondere. Allora, intanto, diciamo, lavorare su interi contenuti non è, e quindi fargli generare interi contenuti, interi capitoli, non è assolutamente consigliabile, ma questo è come... non ha molto senso, vanno fatti pezzettini, questi pezzettini vanno verificati dalla propria competenza, ma questo è quello che fai normalmente quando spulci e dai un ranking te ai contenuti, quindi se leggi la Gazzetta delle Scienze di Roma Est è una cosa, se leggi Nature è un'altra, e questo è sicuramente un lavoro che devi fare te. C'è da dire poi di fondo che rilasciamo l'esempio di Tesla, piuttosto che l'esempio di ChatGPT-4, diciamo la massa delle persone guida molto peggio di Tesla. E gli incidenti sono fatti dall'intelligenza umana nella maggior parte dei casi. Poi in quel tot di percentuale di incidenti Tesla ci sono questioni etiche, giuridiche enormi, però il punto è che gli incidenti statisticamente passeranno dal 50% delle persone che esce per strada al 5%. Su quel 5% ci sarà un delirio etico, un delirio, una complessità enorme, etica, morale, giuridica, tutto quello che vi pare. Idem su i contenuti. Allora, abbiamo fatto degli esperimenti con mia moglie o ex moglie che sia, che è una psicoterapeuta, ed è stato molto divertente perché gli abbiamo chiesto su delle tematiche piuttosto complesse di clinica, ma ci sono delle ricerche scientifiche specifiche su questo tema? Ah sì, certo, eccole. Totalmente inventate, perché il tipo di ricerca che è fatta da talmente tante fonti, e la ricerca statistica a doverti risolvere una questione qualche volta fallisce miseramente, e lì per forza di cose, se sei uno scienziato piuttosto che devi comunque avere una verifica di tipo diverso. Il punto è che, e questo pone cioè far sorridere o ti fa preoccupare se devi preparare una tesi importante o se devi presentare un lavoro a una platea. Però quel tipo di controllo che comunque devi fare è quel tipo di toppe che prendono normalmente gli esseri umani molto meno rumorosamente. È ovvio che un sistema così potente ovviamente pone una certezza che però non ci dovrebbe essere in nessun caso se tu devi sviluppare un contenuto, cioè c'è sempre una verifica, c'è sempre un processo appunto per arrivare a un risultato, c'è sempre un qualcosa che deve essere messo alla prova di quello che io voglio ottenere. Quindi c'è modo, al momento no, non so se ci sarà, sicuramente andrà a migliorare, certe cose andranno a migliorare, certe cose andranno a peggiorare. Certe cose andranno a migliorare perché, ripeto, quando si parla di statistica è un po' un termine giusto, corretto, però ti fa pensare a cose semplici, in realtà qui stiamo parlando di tanta roba. E peggiorare perché mano a mano questi contenuti generati tendenzialmente bene, però sono tendenzialmente bene, diventeranno poi il frutto, esatto, di nuove ingestion future. Certo. Quindi cominceranno ad esserci i post, cominceranno ad esserci gli articoli, e quindi è un circolo un po' virtuoso e un po' vizioso. E questo pone ulteriori nuovi problemi. Io vorrei dire una cosa su questo, ossia, prima parlavamo appunto di l'attendibilità delle fonti. Dipende che tipo di fonte. Cioè le intelligenze artificiali non sono semplicemente chatbot o comunque intelligenze basate su un linguaggio simbolico, cioè basta, nel senso di testo o immagini qualsivoglia, ma sono intelligenze che apprendono anche proprio a seconda dello strumento che gli si viene dato per interagire col mondo. Se lo strumento è internet, è un computer, sono le informazioni contenute all'interno del World Wide Web, quello è il suo strumento di apprendimento. Ma se fossero telecamere, se fossero microfoni, per esempio, io vi vorrei portare un caso molto simpatico di una società orwelliana, praticamente la definirei, della Cina orientale, dove sin dal 2017 diciamo c'è stato partiamo dal principio, c'è stato un grande sviluppo in intelligenza artificiale e dei sistemi di riconoscimento facciale, e noi lo vediamo per esempio sui social network, per esempio su Facebook, che penso più o meno conoscano tutti, c'è un sistema di riconoscimento facciale per cui Facebook determina già in anticipo chi potrebbe essere quella persona, suggerendo il tag da inserire. Ecco, in Cina l'hanno sviluppato in università per un sistema di rilevamento delle presenze, per cui l'intelligenza artificiale connessa ad una serie di telecamere determinava intanto l'ingresso dello della studentessa in aula, il suo grado di attenzione rispetto all'elaborazione della mimica facciale, e quindi se stava guardando il telefono, se dormiva, se era effettivamente concentrato o concentrata sulla lezione. Stessa cosa è stata sviluppata per esempio da un punto di vista utile per il pagamento, sempre in Cina, cioè il pagamento, per esempio molti oggi utilizzano lo smartwatch o il telefono collegato ad Apple Pay, carte di credito eccetera, diciamo una forma di contactless attraverso i device informatici di nuova generazione. Ecco, loro l'hanno sviluppato in supermercati, quindi si parla di posti accessibili a tutti, attraverso il riconoscimento facciale. Perciò si collegava l'Alipay direttamente alla faccia dell'individuo, e quando si arrivava in cassa non c'era neanche più bisogno del cassiere, si pagava con la faccia. E questo non sul tuo device, ma su uno strumento che sta sul supermercato, che questo vuol dire che il tuo viso è riconosciuto non all'interno, diciamo, di un qualcosa di relativamente protetto, ma a livello sociale. E poi, sempre a proposito di questo che stava raccontando, c'è tutto il discorso del social ranking. Guarda, ti finisco solo una cosa. Visto che, come si dice, diciamo, in maniera molto spicciola, no? Orwell ai cinesi gli fa una pippa da questo punto di vista, nel senso che loro l'hanno applicato anche a un altro campo, ossia quello delle sanzioni. Cioè, Io posso pagare con la faccia, perfetto, allora il pedone che attraversa di fuori dalle strisce paga direttamente la multa, gli vengono detratti dal ed è utilizzato anche dal punto di vista diciamo del perseguimento del crimine, per cui c'è il riconoscimento non solo della faccia del criminale ma anche dell'andatura, e le IA riescono anche a discernere se per esempio lo zoppicare sia simulato o no sulla base di tutti i dati raccolti, e questo era operativo nel 2017. Venivano processate in ambito criminale in una sola delle varie province cinesi all'incirca 1 miliardo di informazioni al giorno. Che vuol dire? Che dal 2017 oggi sono state processate una quantità di immagini e di, diciamo, riconoscimenti biometrici nella loro interezza, faccia, corpo, movimenti, gestualità, voce. Un sacco di persone. Quindi l'attendibilità è un discorso estremamente relativo per un'IA, anche basato sulla statistica, perché può prendere talmente in tanti modi diversi che secondo me a quel punto la sua attendibilità non è interpretabile in maniera corretta dall'attendibilità del pensiero umano, perché non ragiona alla stessa velocità come quella di un'intelligenza artificiale. Il problema è la deriva, a quel punto secondo me, politica del sistema. Sì, come diceva Fabio. Esatto, cioè... Nel senso, però esatto. Posso dire una cosa? Voi parlate di velocità, attendibilità, eccetera, ma hai detto deep learning, cioè io volevo capire cosa pensate riguardo al problema della profondità del pensiero umano. Cioè non emerge proprio, cioè a me non me ne frega niente andare veloce, a me Elio Castellana. Quindi a me andare a fondo. Allora ti rispondo subito: dal punto di vista tecnico, il deep learning può operare su più substrati di pensiero sostanzialmente, quindi può arrivare estremamente a fondo. In maniera spicciola te lo potrei dire così: vedila come una lente di ingrandimento, cioè è più non come una contrapposizione intelligenza artificiale uomo in un certo senso, ma come una lente di ingrandimento di quello che è il modello societario. È chiaro che le IA, per esempio in Cina, sono state utilizzate in questo modo, ma sono semplicemente, la loro applicatività è lo specchio di quello che è il modello sociale cinese, quindi sarà allo stesso modo uno specchio, un'applicabilità di altri modelli sociali. Allo stesso modo anche per l'ironia, no? Come abbiamo detto, si può riconoscere a seconda di determinati contesti, per esempio, comunque diciamo di determinati contesti sociali. Allora immagina appunto un sistema che opera in maniera non solo veloce, ecco, vedi quella profondità come una quella velocità come una profondità di ragionamento, perché è una crescita, ecco. Noi per crescere un anno ci mettiamo un anno, un'IA per crescere un anno ci mette 2 ore. Sì, però e quindi vedo questa cosa, cioè tu, questo parallelismo, cioè crescere, che cosa vuol dire? Beh, a me non interessa il pensiero logico o il principio di non contraddizione o tutte queste belle cose su cui si basa l'intelligenza artificiale. Semmai interessa esattamente l'opposto. Quindi allora ti chiedo, arriverà a poter meditare l'intelligenza artificiale, alla meditazione trascendentale, che ne so, dico, può arrivare ad un'imitazione, nel senso che è come, allora per esempio, può arrivare a un'imitazione dell'emozione, non potrà mai effettivamente comprendere quello che è la morale o se sia giusto o sbagliato un'azione, ma può arrivare a un'imitazione. Per esempio nella pennellata di un pittore, per dire, ci può essere anche l'emotività dello stesso, rabbia oppure felicità, e un'intelligenza artificiale molto sviluppata potrebbe anche simulare quei micro movimenti emozionali, no? Ma non riuscirebbe mai ad identificarne la vera fonte, cioè la fonte esperienziale di quel tipo, dal punto di vista emotivo proprio. E il rapporto universale e particolare che entra in gioco a questo punto. Questo, che cos'è l'evento? Però questo è l'evento umano, e per la presenza, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose. Ora io forse con un linguaggio che esula dalla discussione e non riesco a spiegarmi sufficientemente. Sei stato piuttosto chiaro, però immagina questo. Non la pongo come una critica. Tra l'altro non sono difensori delle AI. Riflessione ulteriore e di ampliamento, diciamo, del contesto nel quale analizziamo qualcosa che ci riguarda. Alla fine di questa chiacchierata, l'unico consiglio che mi verrebbe da dare è cercare di avere meno idee chiare possibili, perché è assolutamente inutile barra sbagliato. Perché parlavo prima di processo? Perché se tu metti, e quindi passiamo al storytelling, una stanza chiusa, senza finestre, senza niente, e ci metti un artista e ci metti un'intelligenza artificiale e vedi solamente il risultato, tutti i discorsi che stiamo facendo adesso cascano completamente. Sì, ma rispetto al pubblico, ma non rispetto a me. Bravo. E quindi c'è il tema del processo e c'è il tema di dire: ok, quest'opera non è solamente il risultato. No, ma è il processo. Ok, però il punto è che tu hai un mondo non solo di spettatori, perché, e soprattutto non di spettatori con un'accezione negativa come quasi sembrava adesso, ma hai un mondo di persone che guardano, che leggono, che interpretano e che giudicano. Il manufatto, in quanto manufatto, se non oggi, fra 3 mesi, fra 3 anni o fra 5 anni, okay, per non fare il profeta che non serve a un cavolo, sarà identico. Allora, dove sta la differenza? Cioè, è su quello che secondo me è l'unica riflessione che si deve fare, è cos'è che fa la differenza. E tra l'altro non è detto che ci sia una risposta univoca, no? Probabilmente nell'arte il processo e la cultura e il pensiero intellettuale, il valore, l'esposizione, il sistema del labo, non lo so, n cose. Diciamo anche però nel lavoro di un avvocato, nel lavoro di un medico, il risultato, nel lavoro di un medico probabilmente sarà uno strumento fondamentale a cui la responsabilità della cura però sarà sempre quella dell'uomo, perché come diceva lui ci sono già adesso sistemi di lettura delle TAC che riescono a interpretare una cellula tumorale molto prima, molto più accuratamente, e questi sono dati in questo caso scientifici, che una lettura da un esperto o n esperti radiologi. E il manufatto, quindi il risultato, il referto, in quel caso è migliore però che cosa vuol dire? Che cosa si va a sostituire? E che valore ha quel referto? Quel referto probabilmente o viene dato a un'altra intelligenza artificiale che fa il compito medico, oppure viene dato a un medico, oppure il medico è alla fine. Cioè le implicazioni non sono sul risultato, perché se parliamo solamente del risultato, quasi tutto quello che immaginiamo, pensiamo, può essere sostituito, non oggi, fra pochi giorni. Ma la differenza le immagini, secondo me, è il caso più eclatante, ci sono veramente miliardi di schifezze, già c'erano prima, adesso ce ne sono molte di più, perché abbiamo una macchina dei sogni, cioè chiunque può farla, può partire da un pensiero e quindi da una frase e trasformarla in immagine. E ritorno a quello che dicevo all'inizio, ha creato nuovi artisti? No. E questa è la cosa secondo me più importante. Cioè, l'unico pensiero secondo me che ha un senso da parte mia lasciare è che non è il manufatto che fa la differenza. Cioè il manufatto, anzi l'AI fatto, ha una qualità, dove qualità tecnica, ma anche se vogliamo estetica, cioè, ma non è quello alla fine, o estetica, o lo posso dire che, però non è quello che fa la differenza. La differenza è qualcos'altro che sta fuori, perché intrinsecamente anche la migliore delle macchine non ha quel sistema, quel modello. Cioè, quello che voglio dire è che le macchine andranno sempre più avanti e andranno a qualcosa di totalmente non distinguibile dal manufatto. Questa è la questione già di Danto sull'indiscernibile, no? Rispetto al Brillo Bones di Warhol, cioè, diciamo, la questione già è stata posta, non è una cosa nuova. Cioè, la macchina può espandere probabilmente all'infinito la sua conoscenza progressivamente, ma può operare per rotture epistemologiche rispetto a se stessa? Sì, e questo è un altro dei grandi problemi, cioè, nel senso che molte di queste macchine stanno diventando così complesse che sono delle black box. Sui linguaggi di programmazione è già avvenuto anni fa, cioè sistemi che hanno cominciato a sviluppare dei linguaggi di programmazione non comprensibili dall'uomo. Okay. Quindi sì, il punto è che era super interessante quello che diceva prima Elio. No, sul fatto che non è un tema che c'è da sempre nell'uomo, no? Il punto è che adesso per la prima volta una cosa aliena perché aliena è prodotta da noi? È una cosa aliena perché può prendere perché non ha un cavolo, non si, forse probabilmente chiamarla intelligenza artificiale la particolarità dell'essere umano non è causa di se stessa, cioè non è quello di evolvere attraverso protesi. Cioè la differenza fra noi esseri umani e che ne so un altro tipo di animale è che noi, per esempio, prima di volare non abbiamo avuto bisogno di procurarci le ali, ma noi abbiamo costruito l'aeroplano. Quindi l'intelligenza artificiale, secondo me, almeno per come la vedo io, non è nient'altro che una delle protesi di cui noi usufruiamo fin da quando abbiamo cominciato a usare il bastone, quando eravamo zoppicavamo. Allora, però, secondo me, come dire, ci sono dei salti. Il primo salto è quello della scrittura. Il primo salto è quello della scrittura, non a caso da Platone, come dire, diciamo, in qualche modo criticata. E poi c'è stata la stampa, la fotografia, il cinema, la computer grafica. Secondo me l'intelligenza artificiale fa parte di questi momenti ma non è nella stessa magnitudo, è completamente un'altra magnitudo. Cioè, Questo, secondo me, non lo possiamo in questo momento non lo possiamo determinare perché se una invenzione poi prende piede oppure no, e in che modo prende piede, lo dice solo il tempo, vale a dire quante sono quelle invenzioni che sembravano dovessero cambiare. Pensa all'aerografo. Cioè, fino a un certo punto noi usavamo matita, disegno, andavo al liceo artistico, matita. A un certo punto arrivano i profeti dell'aerografo. Quindi io non ho mai avuto l'aerografo, però avevo degli amici che compravano questa roba. E l'aerografo quanto è durato? È durato un baleno. Sono, secondo me, paragoni poco sensati, nel senso che nessuno ha la palla di cristallo, quindi domani mattina finisce tutto questo tipo di... Sì, perché si sceglie un'altra strada, non perché non funzioni, ma perché diciamo l'umanità fa delle scelte in qualche modo come dire, non razionali. Ecco, allora, guarda, se la razionalità fosse dominasse il mondo, forse diciamo sarebbe possibile, ma invece è impossibile fare previsioni. Questo è un dato di fatto, cioè nessuno, anche il meteo, no, tu non lo puoi prevedere. Non puoi prevederlo perché tu puoi sapere che cosa sta succedendo in questo momento, in quel momento. Quindi in questo momento è vero, sì, quello che quello che ti voglio dire io è questo. Alcuni l'hanno paragonato al momento del progetto Manhattan, quando è stata inventata la bomba atomica. Questo è, cioè non vuol dire che domani cambierà il mondo, però è un una tecnologia o un qualcosa, perché poi non è solo tecnologia, che a cui abbiamo dato un punto di partenza che è un punto di svolta. Verso dove? Sì. Esatto. Ok, con grande sincerità. Un grande boh. Quindi assolutamente poco prevedibile, sono d'accordo, ma non è qualcosa... Come la scrittura. La scrittura. Ho capito. Insomma, non è che Meglioni anche un'altra volta, cioè stiamo parlando dicendo la scrittura. Certo. Il punto... però successivo è che è un qualcosa che può, anche qui non è detto che sia così, creare qualcosa di parallelo all'intelligenza. Secondo me, sì. Molto secondo me però, diciamo, a quello che a me avrebbe fatto piacere chiedere all'inizio a tutti voi è una definizione di intelligenza, perché noi stiamo parlando di intelligenza artificiale, che è un aggettivo, ma il sostantivo... Ho già risposto varie volte. È vero, però insomma io credo che non esista una... La possibilità dello scarto. Diciamo, io per esempio sono affezionato a quella di Cipolla, di definizione, no? Cioè la persona intelligente è la persona che fa contemporaneamente il proprio vantaggio e il vantaggio altrui. Questa è una delle definizioni, ma ovviamente ce ne sono molte altre. Quindi prima di parlare di intelligenza artificiale sarebbe stato forse interessante capire per ognuno di voi, di noi... E poi magari oltre all'intelligenza anche le altre cose a cascata, coscienza... Anche perché intelligenza, inconscio, diciamo, cioè sono tutti... È un po' come una malattia mentale, sì, no? Diciamo che là ti metti, secondo me ti metti anche in un problema ancora maggiore, perché oggettivamente che cosa sia la coscienza, da che cosa sia determinata, è molto esatto, non lo sa nessuno. Figura di quella artificiale, però secondo me il punto, no, io sto per uscire, secondo me il punto è che noi da un punto di vista umano, antropico, parliamo di intelligenza, di linguaggio e ci riferiamo a un sistema così complesso con una lente del tutto umana. Il punto è che non è così. Cioè il punto è che alcune di queste cose, non tutte, non il bot della banca, no? Però alcune di queste cose stanno su un livello di complessità che è talmente grande che proprio sfugge non è intelligenza, sicuramente non è intelligenza, per quanto ne sappiamo noi dell'intelligenza umana, non ha la stessa... Sì, ma l'intelligenza umana che cos'è? Ecco, adesso faccio una domanda brutale, è un'invenzione della psicologia, è un'invenzione della psicologia dell'Ottocento, insomma, un po' scientista, questo secondo me è l'intelligenza. perché poi andiamo a vedere che nella riflessione filosofica novecentesca c'è cioè l'uomo è antiquato di Anders. Foucault che dice l'uomo è un'invenzione relativamente recente e non esiste, quindi tutte le nostre nozioni contornate diventano molto ballerine sfocate. Perché sì, non esiste neanche un'intelligenza più sull'intelligenza della scuola si pensava che i bambini mi piaceva l'immagine che hai detto tu della stanza senza finestre e senza niente, dove c'è l'intelligenza artificiale e c'è l'artista. Che succede? Può succedere questo, che l'intelligenza artificiale la farà sempre l'opera, l'artista no. Potranno anche non farla perché le condizioni saranno tali che non la farà mai. Si chiama silenzio. È la bellezza, anche l'intelligenza artificiale, devo dire, questa che dobbiamo convincere. Perché l'intelligenza artificiale non può subire le condizioni psicologiche di stare tra i passi. Non sai di scrivere, non ha fuori dalla stanza, il fondo bianco si è dato da un silenzio creativo, da una pausa, da una scelta, perché la mancanza di corrente. Il risultato è uguale, il punto è sempre quello, cioè la differenza. Torniamo al comportamentismo, cioè il fatto che si possa dedurre che uno abbia una mente è una questione assolutamente. Noi possiamo semplicemente vedere ciò che questa mente comporta, quindi appunto come si comporta, ma presupporre che ci sia una mente è già una domanda. Però, per i comportamentisti aggiungo un'altra cosa, però, però grazie alle macchine, cioè come dire, certo. Le scienze cognitive, infatti, è chiaro, utilizzano il modello dell'intelligenza artificiale, sì, altrimenti lì, rimanevamo ai comportamentisti, no? No, vabbè, ma pure i cognitivisti, cioè Aggiungo un'altra cosa. Non mi convince né il comportamentismo né il cognitivismo. Quindi. In realtà il cognitivismo è una prospettiva un po' più sintetica, cioè nel senso l'ultima cosa che volevo dire è come sia molto molto strano anche o molto normale che ci si abitua alla meraviglia, cioè fino a 6 mesi fa, per la maggior parte delle persone, diciamo fino a 1 anno e mezzo fa, non c'era un'interazione con la macchina diversa dal bot della banca, cioè che non capiamo un cazzo e a cui non parlavo. Oggi che c'è una cosa del genere, stiamo parlando di un test di Turing superato ampiamente, anzi il test di Turing è vecchio rispetto a quello che possono fare le macchine, sì, vabbè, è male. Perché ci abituiamo a tutto. Ci abituiamo a tutto, però il passaggio c'è stato. E che gliene freghi poco a qualcuno o gliene freghi di più a qualcun altro, va bene, ci sta. Però c'è stato un salto quantico, è un evento quantico enorme, punto. Cioè questa è l'unica certezza. Poi dopo dove si andrà? Beh, se no non stavamo qui a parlare. Comunque sì, io... Ma non credo che arriverò a vivere tutta questa... No, ma neanche io per esempio, ad assistervi, mi farò sicuramente diciamo, sempre dei problemi di generali nel momento in cui scrivere un testo, cioè, senti che c'ho e non credo di poterlo far fare l'intelligenza artificiale, perché non non sarebbe mai, non ci potrei mai mettere la firma Roberta Velasella, mai. Perché? E perché no? Perché non è prodotto da me. Però, perché per me le parole sono importanti e nascono da me, da dentro di me. Quello che nasce dentro di me io lo firmo, quello che non nasce dentro di me. Ma infatti la tua è una posizione, come dire, è una decisione a priori. Anzi, la parola è proprio ciò che sta tra le persone, cioè non esiste la parola personale. Cioè la, la scultura realizzata a Carrara da una macchina su una tua idea, sono parole tue o è parola di qualcun altro? Questo però è un po' diverso. Perché è diverso? Sì, no, è un po' diverso, nel senso, è come la cosa di prima, cioè l'artista che si fa fare il quadro dall'aiutante. Cioè anche lì dipende sempre che dalla differenza? Dipende da te, dalla tua etica, da quello che tu pensi del tuo lavoro. Però a quel punto è più cioè, però non è non ha che fare di una tua etica. Per esempio, ma io, non è una questione. Adesso penso molti artisti, molti scultori sono tornati a scolpire, anche lo stesso Iago. Iago non mi interessa per la sua, perché ci piace o non ci piace, però mi interessa come esempio, nel senso che prima lui faceva essenzialmente la scultura con la macchina a controllo numerico, anche quella di Benedetto XVI è fatta così e poi lui l'ha rilavorata. Invece l'ultima che ha fatto, la Pietà, che a me personalmente non mi è piaciuta, però lui invece l'ha scolpita tutta quanta interamente, e sto notando che molti artisti, anche i ragazzi giovani, anche gli artisti giovani all'Accademia, sono tornati di nuovo a riscolpire. Ma questa è una questione di marketing. Vabbè, ma è come si usa sempre di meno questa cosa. Ma non solo, e oltretutto non è esclusivo. È una questione semplicemente di scelta personale, di etica personale. Però non è, secondo me, dal mio punto di vista non è esclusivo, cioè io dipingo ed è per me fondamentale dipingere, mi interessa di più, nonostante non sia solo ideale, ma non vedo l'esclusività, non ne vedo assolutamente. Mentre noi parliamo ogni minuto il mondo quella di San Pietro che ha fatto la migliorazione a livello della tu hai detto una cosa invece prima di quando ti sei presentato, che l'intelligenza artificiale soppianterà tantissimi lavori e tantissime persone perderanno il lavoro, e tu già stai cominciando a prevedere delle cose. Che cosa prevediamo allora per i prossimi anni? Spererei una rivoluzione. Sul capolavoro andare dall'orizzonte. Cosa c'è dietro un angolo? Il problema è, come già stato detto, tutta una serie di lavori intellettuali. Un operaio e un cane, aveva detto. Sono tutta una serie di lavori intellettuali che di creativo hanno poco, purtroppo, per loro, e verranno sostituiti dalla macchina. Quindi io parlo in ghostwriter, ho fatto una battuta, ma non è una battuta. Ancora prima di ChatGPT gli assunti di notizie erano già fatti in maniera artigianale, e ci sarà una massa sociale che non saprà cosa fare secondo me poi c'è un tema programmare l'intelligenza artificiale, ci saranno nuovi posti di lavoro, secondo me c'è quei campi si facevano a mano, poi a un certo punto mi sembrano di sì, e c'è una fronda, vedo. Va bene, ringraziamo tutti i relatori. La seconda puntata raccoglieremo delle domande. Esatto, io per questo proposito. potremmo invitarmi anche la domanda preventiva mi risulta esatto, sì. Allora domani la domanda preventiva allora la facciamo da casa sì, sì, e ne voglio parlare anche per te un libro dove c'è citato lo studio attuale Ciao Michela. Ci vediamo. Ci vediamo il 20. Il 20, se no noi due non ti parliamo mai più. Sì, glielo ho già chiesto quando lo fai. Dobbiamo andare alla sua. Non lo vedo per me. No, ancora no. Ah, bene. 1996. Quindi non